La casa di Ingolstadt lancia il guanto di sfida nel segmento delle berline medie con la nuova A4. Il modello infatti esce dagli schemi un po' gelidi che hanno caratterizzato le versioni precedenti, nella linea, nell'allestimento e soprattutto nel piacere di guida. Invariata invece la cura maniacale per i dettagli, tra gli elementi determinanti del successo delle progenitrici. Per la prova di questa settimana saliamo a bordo della A4 spinta dal turbo diesel di 2,7 litri, accoppiato al cambio automatico Multitronic. Ecco le caratteristiche principali. Nome: Audi A4 2007 V6 TDI Multitronic. Carrozzeria: berlina a 3 volumi, 4 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,70 m, larghezza 1,83 m, altezza 1,43 m. Motore: anteriore longitudinale turbo diesel 6 cilindri a V di 90 gradi di 2698 centimetri cubici. Potenza: 190 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio automatico a variazione continua a 8 marce. Prezzo: 39.151 euro.